posso andare. È il mio momento. Buongiorno, questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Si sente. Muovete. Devi lasciar prendere dal passo e imboccare quel sentiero che ti indica il ritmo. Il ritmo. Ritmo. Ritmo. Ritmo. Capito come? Madame et Monsieur, vous présente l'artiste Gigi D'Agostin, le nouvel Martel. Est belle, est belle, est belle. Oh, déjà, est belle. Se volete scrivermi 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2, se hai l'impulso mi scrivi, se no mi scrivi, se no, se no, se no. Capito come? Ginnastica mentale. Ginnastica mentale.

suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Ti amo. Sono perduto. È tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O, mica pistacchi, stighecchi. No, niente, volevo dirlo. Ciao, sono Gigi D'Agostino. E questo è il mio cammino. Si sente? Chiama un po' il vocalist, per favore. Ehi! tempo con l'info. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello questo sabato alla discoteca Max. Max. Bressanone, Bolzano. Domani, domenica, Gigi D'Agostino sarà alla discoteca Nord-Est di Caldogno, Vicenza. Ci vediamo lì. Minchia, su Gigi sa suona, sa canta, sa balla un po'. Si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a tempo. Qualcosa da amare, non voglio fermarmi, continuo a ballare. Faccia neanche ai bambini. Da un mondo migliore non siamo lontani, possiamo toccarlo se alziamo le mani. Quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino! Gigi D'Agostino! Gigi D'Agostino! Musica! Musica! Gigi D'Agostino! Gigi D'Agostino! Musica che unisce! Gigi D'Agostino! Musica! Musica! Gigi D'Agostino! Musica che unisce. Questo è il cammino di un bravo bambino. Sì. Gigi D'Agostino, il tuo antidepresso. Rimani connesso. Allora iniziamo ad avere paura. È una paura inspiegabile. Forse la paura di essere disprezzati, di non essere accettati, di rompere l'incantesimo. Sembra ridicolo, ma è così. Perciò non si fanno domande, si agisce. Cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Cammino di Gigi D'Agostino. Qua c'è il cammino di Gigi Gattino. Il gattino. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O. Oh già già. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica ben detta. Like a river that flows to the sea, this is the way that it has to be. Yeah. suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. I drive around all day long, listen to radio songs. I'm taking what to become what you want for your life. I stop and talk with you, a little help from the moon. Only a few words I will say, God help me, I have to pray. Your eyes are deep in my heart, what you want for your life. Shine on crazy diamond ring. Don't you wanna marry me? In my heart the drums, there's only in my hand a gun. I'll take you home with me tonight. We'll get married in my dreams. Take me far away, so far away. Giorni qui alle 18, qui alle 18 su M2O, il cammino di Gigi D'Agostino, una buona occasione per diventare tamarri. Volesse venirmi a trovare. Tito? Sabato e domenica. Vabbè, fai l'annuncio, lavora. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello questo sabato. Come si chiama il locale? Discoteca Max. Ah. Bressanone, Bolzano. Cominciamo ad andare. Domani, domenica, Gigi D'Agostino sarà alla discoteca Nord-Est di Caldogno, Vicenza. Così l'incontro è possibile. Capito come? Pesa. Questo è il cammino di Gigi D'Agostin, mica non sciolè. Forte, è bello questo qua. Questo è forte. No, perché mi piace essere chiaro. Ah, cazzina. Il cammino di Gigi D'Agostino. La differenza la fa chi balla, chi non si muove è una palla. Intanto ci stiamo concentrando. Sì, dai. Dai, Eggy. Per piacere, non giochiamo sul comodino. Questo è il mio cammino. Si sente? I'm not. per me. 3-3-3-6-4-6-7-6-6-2. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Se per te è la prima volta, lasciati andare. Unisciti a noi. L'amore si scopre soltanto amando. Every day I say, matter of fact, I really need you every day. People still gon' talk, some may be pumped, but don't worry, girl, I'm really gonna drop. When the sun is down, when the moon's gon' shine, girl, I really wanna be with you. Every hour, every minute, every day, every year, come on, girl, please stay with me. I think this girl wanna ride with me, talk to me, freak with me. She wanna be my Cinderella, my señorita. In the hot popping down, she's a real chick. I wanna test if it's true that she real trick. God forbid, I heard a lot about her, that she make it go missing. No damn chili, just try to call me Billy, come on. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Il cammino di Gigi D'Agostino. Stand with my baby, I wanna meet you. Even though the other party wanna freak you. I heard, yeah, you wanna be my Shirley. Come with me and let's go party. Though my age is two times eight, but believe me, I can pop the link. When the world goes round and round, if it's just the sound, get with me, come on, let's ride. She already know what's my name, then it's the cool guy. Bling bling chain on my neck. She feel me cause you know that I host right text. Damn, I wanna show her love when other nigga diss her. I don't wanna pick a lump in my mission. Looking for my attention, I hit the ground and I fall in town. I'm feeling sneaky, but I'm going down, down. That's right. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, and darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, stand by, stand by me. Spettacolo, frate. Sono legato, frastornato da una storia che non ha più storia, che mi mancherà come l'aria. Sono rovinato, sono sputtanato, il sangue c'è un valore che non va. Sarà forse l'altro che non mangio né frutta né verdura mai. Eccitato al solo pensiero di toccarla come piace a lei. Sono il santo padre che mi fa un gesto, mi raccomando che rimanga tra di noi. E cammino, cammino nel mio giardino, è come un soldatino. Taratara, e cammino, cammino e corro come un bambino e sparo. Al destino. fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Dai Gigi, fammi sentire sta bella ragazza e vai. All'ora sesta c'è la musica che pesta. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino sulla testa. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza, M2O. Con i tuoi sogni.